che sei divertita ad affogarti nel tuo pianto. L'istinto distruttivo ti alzi la mattina, lavori tutto il giorno e la tua mente poi si inclina, ma nessuno capisce la tua indignazione, all'odio e la violenza, la totale distruzione. La tua società ideale è l'inferno sulla terra, l'alcol è il principio e comincia la mia guerra. Non ho l'alternativa per vivere la giornata, per sentirsi ancora vivo. Evadere da qua, da questa civiltà, non puoi tutta la vita rassegnarti alla realtà. La tua società ideale è l'inferno sulla terra, l'altro è il principio e comincia la guerra.